America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Eccoci all'ultima puntata di questa maratona nella storia della musica dei compositori, in questa classifica dei migliori compositori della storia messa a punto dal New York Times. L'abbiamo rivisitata con l'aiuto di Armando Torno, il grande critico musicale italiano. Devo dire, Armando, sei in linea con noi? Sono sì. In linea e saluto tutti, anche te Mario. Grazie Armando. Ecco, devo dire che mi ha un po' amareggiato nella puntata scorsa questa tua così critica un po' severa sul fatto che io secondo te sono stonato. Ecco, scusa, adesso parlo io un minuto. È vero che tu sei il grande critico, però se tu dicessi questa cosa a un nostro collega che si chiama Giuseppe Cruciani, che come tu sai conduce La Zanzara, insomma, adesso per carità la sua cultura musicale non è neanche paragonabile lontanamente alla tua, però ecco, non so se si troverebbe d'accordo con te, perché devi sapere che mi ha fatto interpretare in diretta, senza rete e senza musica, dei brani musicali americani e che io, così, preso da un'ispirazione del momento, ho fatto con grandi parole di apprezzamento di una nostra ex soubrette che si chiama Lori del Santo. Ecco, come rispondi a questo? Ma Lori del Santo e Cruciani non sono due critici musicali e soprattutto non hanno mai diretto un'orchestra. Può essere che abbiano avuto una sensazione di un momento e io rispetto questa loro sensazione, ma vorrei, Mario, che tu non cantassi, oppure che cantassi in ambito privato, ecco, quando la senti, quando vuoi, ma non certo alla radio. Non dobbiamo diseducare le giovani generazioni o coloro che si mettono all'ascolto. Allora mi butterò più sulla musica leggera e ti invierò una delle mie composizioni privatamente, che si chiama Sogno Sognino. Armando, siamo all'ultima puntata, al nono posto nella classifica del New York Times. Tommasini mette Wilhelm Richard Wagner e scrive Tommasini: la produzione del ciclo degli Anelli di Wagner è diventata la carta d'ingresso per ogni compagnia di opera che voglia essere considerata. Gli ultimi 20 minuti della cavalcata delle Valchirie sono forse la musica più tristemente meravigliosa che sia mai stata scritta. Armando, la cavalcata delle Valchirie, Wagner al nono posto, lo merita? Doveva essere più in alto? È un posizionamento giusto? Sì, l'avrei messo più in alto. Wagner è indubbiamente un compositore pagano, un compositore estremamente creativo e un compositore che entra in quella che è la stanza delle melodie, delle armonie e fa le sue correzioni. Dopo Wagner l'armonia ha un tono diverso, cambia completamente. Dopo Wagner il teatro è un'altra cosa, dopo Wagner la musica diventa ideologica. Questo grandissimo personaggio in qualche modo viene messo in contrasto con Verdi e, a mio giudizio, ingiustamente, anche se i due probabilmente rivaleggiarono per un certo periodo, ma non dimentichiamoci che fecero due cose diverse. Verdi portò l'armonia italiana in ogni cuore, Wagner portò un nuovo progetto in ogni mente, e da questo punto di vista non dimentichiamoci che non è facile da eseguire, non è facile da interpretare, sovente non è facile da ascoltare. A Bayreuth per il Parsifal si cambia l'orchestra dopo il primo atto, Wagner è anche questo, è anche fatica fisica da inseguire. Siamo arrivati alla fine di questa nostra maratona, di questa corsa nella graduatoria dei migliori 10 compositori della storia, e siamo arrivati a Béla Viktor János Bartók, il grande pianista compositore ungherese, è una scelta che condividi? Senti che ti dico cosa dice Tommasini: c'è l'opera di Bartók in un certo senso ha autorizzato i compositori successivi di qualunque cultura a fondere la musica popolare con la tradizione classica. Bartok è stato anche uno straordinario innovatore che ha forgiato una lingua in cui si sono amalgamate tonalità, scale non ortodosse e passaggi atonali. Ecco, di Bartok vi faccio ascoltare Concerto per orchestra. Condannare Bartok e non me la sento di farlo, dico che ci potevano essere moltissimi altri nomi più grandi di Bartok, forse meno contemporanei, meno pregnanti per taluni aspetti, ma anche nel Novecento c'era un Richard Strauss che meritava tutta la nostra attenzione, c'era un Gioachino Rossini che non sottovaluterei, ma c'era anche, per carità, l'autore della Carmen, quel Bizet che in fondo è l'opera più rappresentata del mondo, che forse desidera essere messo in una classifica almeno una volta ogni tanto. Bartok indubbiamente ha molte caratteristiche del nostro tempo. Il brano che tu hai fatto ascoltare è un brano che dimostra anche tutta la ricerca, diciamo così, etnologica di Bartok. Con lui in fondo arrivano i suoni del cuore dell'Europa alla ribalta della musica internazionale. Tuttavia Bartok rimane un grande che deve molto a Beethoven, che deve molto poi ai musicisti inizio Novecento, quindi a Stravinsky, a Schoenberg e a determinate correnti, ma forse, diciamo così, di autonomo rimane solo questa disperata radice verso la sua terra, verso i suoni profondi dell'Europa. Chi ci avrei messo? Boh, che so io, un Monteverdi non ci sarebbe stato male, ma non ci sarebbe stato male nemmeno Paganini, se vogliamo, che in qualche modo ha fatto sognare il mondo. Non so, c'è il Buranello, ci sono degli autori che come decimo posto potevano benissimo starci perché sono la testimonianza di un'epoca. Certo, si poteva metterci Corelli con i suoi concerti grossi perché ha inventato un genere, ci si poteva mettere Frescobaldi per altri motivi, ci si poteva mettere tutto quello che volete. Comunque, sì, insomma, però in effetti dovevano essere 10, però lui poi fa un atto di contrizione, dice: adesso, dopo aver fatto questa classifica, comincerò questo mio piccolo progetto personale e per espiare i miei peccati andrò ad ascoltare senza interruzione i dischi di Britten, Haydn, Chopin, Monteverdi, che tu stesso menzionavi. Hai citato Haydn, mi era scattato, parlo di Franz Joseph Haydn, un compositore schiacciato tra Mozart e Beethoven, grandissimo, che però non ha avuto il tempo di vedere la luce. Bene, Armando, io ti ringrazio di tutto, di questa straordinaria chiacchierata. Devo dire, ti ringrazio meno per aver detto a me, grande musicista a mio modo, che sono stonato, ma so dove potrò trovare rifugio. Troverò rifugio nella Zanzara e nella trasmissione di Giuseppe Cruciani, se tu me lo consentirai. Allora io ringrazio te, caro Mario, di aver dato questa possibilità così di esprimere anche i miei giudizi accanto a una classifica così autorevole. Devo dire però che non mi pento assolutamente del giudizio che ho dato sulle tue interpretazioni e per quel che riguarda il rifugio c'è ancora un diritto di asilo politico, come un tempo i malandrini l'avevano nelle chiese. Vai pure da Cruciani e poi faremo i conti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Chiudiamo la nostra puntata dedicata alla musica classica, alla classifica dei 10 più importanti compositori di tutti i tempi, che abbiamo seguito con l'aiuto del nostro amico e grande critico musicale italiano Armando Torno, e dunque oggi vi propongo il canone in re di Pachelbel, reinventato da Coolio nel suo pezzo See You When You Get There. It's just because of that you act like you don't like a brother no more. I guess that's just the way you go. I ain't trying to preach, I believe I can reach, but your mind ain't prepared. I see you when you get there. I see you.